questa decisione che è stata resa nota ieri è un successo di portata storica, è la prima volta che la Corte Costituzionale emana un'ordinanza di incostituzionalità accertata ma non dichiarata per dare tempo al legislatore di intervenire. In realtà questo comunicato con una parte del dispositivo che è uscito ieri evidenzia che il caso Cappato rende noto che ci sono dei vuoti di tutela costituzionale e il Parlamento ha un anno per colmarli. E alla scadenza di questi 11 mesi, il 24 settembre, se non fosse stata emanata una legge che interviene per colmare questi vuoti, interverrà la Corte Costituzionale. Questo anche concretamente che cosa significa? Nel senso che al momento, tra l'altro, sempre Cappato ha in corso anche un altro processo che era stato rimandato in attesa della decisione della Consulta. Sarà a questo punto rimandato ancora? In questo momento rimane sospeso il processo di Milano. Il processo di Massa è iniziato e vede imputati sia Marco Cappato che Mina Welby, oltre che per il reato di aiuto, anche per il reato di rafforzamento della volontà e istigazione al suicidio. Quindi quel processo andrà avanti perché bisognerà provare, così come è avvenuto a Milano, che non c'è stato rafforzamento della volontà, ma soltanto aiuto ad una persona con una malattia irreversibile, con gravi sofferenze, che chiedeva aiuto per poter porre fine alle proprie sofferenze. Io vorrei chiarire un po' ai radioascoltatori quello che abbiamo anche evidenziato alla Corte Costituzionale e io stessa durante la discussione. Qui non si sta chiedendo che sia affermato un diritto generico a morire, ma si sta chiedendo che nei casi in cui c'è una patologia irreversibile che produce gravi sofferenze, come nel caso di Fabiano Antoniani, bene, in quel caso c'era una persona che era ben determinata, aveva provato tutte le possibilità terapeutiche possibile, non versava in solitudine e abbandonato dalle cure, ma era contornato d'amore, da amici, dalla famiglia, e però non voleva più soffrire, voleva porre fine alle proprie sofferenze. Certo, poteva rifiutare i trattamenti, ma avrebbe avuto un percorso diverso, cure palliative, sedazione profonda. Lui voleva avere la garanzia di salutare i suoi cari, addormentarsi e non svegliarsi più. Per questo è dovuto andare in Svizzera e per fortuna era a Milano, non in Sicilia, perché altrimenti non avrebbe potuto fare nemmeno quel lungo viaggio. Per andare in Svizzera è stato aiutato da Marco Cappato, che fino all'ultimo momento gli ha chiesto di ritornare sui suoi passi, di ripensarci, di non andare avanti con l'assunzione del farmaco, ma Fabiano ha voluto invece procedere. Allora, questi sono casi particolari. Nessuno chiede che sia cancellato il divieto di istigazione e aiuto al suicidio, perché nessuno deve essere mai istigato e aiutato a fare un atto così estremo. Chiediamo solo che in casi specifici vi sia uno spazio di lecità che sia riconosciuto e una persona non sia implicata in un reato che invece appartiene soltanto alla fattispecie dell'istigazione e del rafforzamento della volontà altrui per il suicidio. Tornando al tema della discussione che a questo punto si dovrà tenere in Parlamento, tra l'altro Cappato il primo giorno di discussione della Consulta aveva anche risposto a Conte, che era intervenuto contro di lui, dicendo che voi state aspettando da anni che il Parlamento legiferi in tal senso, e poi è stato effettivamente quello che ha chiesto anche la Consulta. Nel senso sono che sono cinque anni che in Parlamento è depositata una proposta di legge di iniziativa popolare, ad oggi con 130.000 firme di cittadini italiani che chiedono che sia discussa quella proposta di legge che prevede la legalizzazione dell'eutanasia. La Corte Costituzionale ha mandato un messaggio preciso al Parlamento: non c'è un invito a legiferare, ma c'è un vero e proprio richiamo ad emanare una legge, quindi anche a discutere le proposte di iniziativa popolare, che dovrebbero essere anche all'interno del contratto di governo, sono previste dalla Carta Costituzionale, poi arrivano lì in Parlamento e si bloccano e viene vanificata quell'azione legislativa popolare. Bene, oggi è il momento per dare piena attuazione alle richieste dei cittadini che evidenziano un'esigenza di tutela, inviando una richiesta precisa, 130.000 firme per la legalizzazione dell'eutanasia, con una proposta già pronta. Questo Parlamento, che comunque in materia di diritti civili sembra intenzionato, se possibile, anche a fare dei passi indietro rispetto alla legge sull'aborto, c'è il caso del DDL Pillon, c'è la questione del riconoscimento del diritto alla famiglia per le famiglie LGBT, insomma è un Parlamento che potrà produrre un disegno di legge positivo in questo senso? Ma intanto è un Parlamento che spesso e volentieri, con i casi che lei ha appena menzionato, commette degli incidenti ben precisi. La legge 194 è una legge a contenuto costituzionalmente vincolato e non può essere modificata, quindi saranno tentativi vani quelli che farà il Parlamento. Per quanto riguarda la legge Pillon, che era anche in Corte Costituzionale perché ha voluto intervenire ad opponendum contro la questione di legittimità costituzionale e non è stato ammesso. Bene, e ritornare indietro in materia di diritto di famiglia è una cosa veramente aberrante. Noi oggi, chi fa l'avvocato sa quanto lavoro c'è dietro a delle tutele che dobbiamo affermare ogni giorno in materia di famiglia. E per quello che riguarda le unioni civili, l'Italia, su input dei tribunali, dallo scorso anno ha una legge emanata dal Parlamento. È una legge a metà, è una legge che dovrà essere affiancata da una norma che preveda che le famiglie dello stesso sesso possano procedere anche in Italia per fare famiglia con dei figli e non andare nei paesi dove invece è normato e consentito e poi tornare in Italia, farsi riconoscere la piena genitorialità. La precedente legislatura ha emanato la legge sulle unioni civili. Oggi bisognerebbe fare un passo in avanti, tornare indietro dopo il lavoro che è stato fatto lo vedo un po' difficile.